E si cazzeggia. Oh. E ti fai uno svarione. E ti fumi un trombone. Simo X. Mi sveglio storto la mattina, dalla sera prima. Rintronato, devastato dalla ganja che ho in cantina. In testa c'ho una rima che è da tempo che la medito. Inedito, ma prendo carta, penna e la dimentico. Ci vuole un medico, però uno bravo. Di sta roba sono schiavo. Se fumavo un po' di meno, forse me la ricordavo. Torniamo a noi, sta giornata che è iniziata male. Meno male che ho uno zippolo a tirarmi sul morale. La mia rabbia sale perché già non trovo le ciabatte. Più volevo fumare, mi accorgo che son senza mappe. No, non mi ci far pensare. Vestirmi, andare dal tabacchino è l'ultima cosa che vorrei fare. Vabbè, vabbè, faccio sto sforzo, credimi. Ma può andare anche peggio perché arrivo lì davanti e mancano 10 centesimi. No debiti, mi dice il tabaccaio sorridendo mentre mi sto innervosendo. Mi rendo conto immediatamente che senza mappe di sta bomba non se ne fa niente. Impaziente, invadente, ritorno verso casa. Vedo mio fratello Schiavix, se ne ha una già girata. Ma va, bella zio, tu forse non ci credi. No, c'ho una scimmia di fumare che mi stavo arrampicando sui vetri. Ora andiamo su da me e chiedo mappe. Non posso chiederti più una jolla in mare del buon re. Yeah. Eravamo tutti insieme, sì, a fumare in serenità. Non stavamo tanto bene, no, ma questa è la normalità. Sì, eh. Già siamo stravaccati sul divano, mano bombe non a mano, fatte a mano, ma man mano che fumiamo ci abbiocchiamo. Arriva Manu, bella fra, come andiamo? Guarda qua, c'è un castello in tasca che mi sembra di essere un sultano. Iniziamo e ci rendiamo conto piano piano che per ogni minima minchiata ora ridiamo. Giri di ping pong, questa roba è very strong. Nel cervello c'ho le scimmie urlatrici come Homer Simpson. Bling blong, suona il campanello, una tragedia. Io vado ad aprire in ansia e son testimoni di Geova. Fra te è una figuraccia, apro ed esce troppa cappa. In più quello mi parla, io gli scoppio a ridere in faccia. Ma dai, chiudo e ritorno alla fiesta. Una brasca che mi aspetta. In favore non spezzo una lancia ma una sigaretta. Di fretta facciamo un altro gioco. Se a voi piacciono gli ortaggi, vi ho portato un bel carciofo. Do fuoco a questo ortaggio, nella testa c'ho un miraggio. Questo momento è divino come il codino di Baggio. Divento pure il saggio nei discorsi senza senso. Più ora un buco nello stomaco che inizia a far spavento. Mi prendo 2 panini e la Nutella, pure qualche caramella. Dopo il dolce pasta asciutta, poi frutta e stracciatella. Che bella sta giornata come Man Rhyme Down. Ma ora abbiamo mangiato, girala, inizia il secondo round. Tutti insieme, sì, a fumare in serenità. Non stavamo tanto bene, no, ma questa è la normalità. Sì, suona il gong, ci appizziamo un bong. Gli occhi che sembriamo un Kong. Sta giornata corre più veloce di Mike Kong. Sentiamo toc toc, chi va là? Aleman, bella fra, come va? Vuoi venire a sta festa qua? Lascia stare, son nervoso, è tutto il giorno che non fumo. Stai tranquillo frate, tieni cielo in tasca, fanne uno. Ci voleva, sono sveglio da quando ha cantato il gallo. Schiavix lo saluta a modo suo. Ale fallo. Zio lasciami stare che ora la devo girare. Prima devo fumare, poi forse possiamo scherzare. Scoppia la risata generale, un bel casino. Zio. La cosa bella è che non se ne sa bene il motivo. Dal macello suona ancora il campanello, non si queta mai. Stavolta apro e guarda un po' chi spunta. Andrew's Ride. Ragazzi non ci credo, sto guardando i vostri volti. Come cazzo fate? Quanto cazzo siete sconvolti? Ma dai, dream dream, Dio mi sta chiamando mai. Ciao bro, come stai? Cosa fai? Dai, vieni qui da noi, non venire senza la tua amichetta. Arrivo subito bro, certo che porto un po' di ora che c'è pure Mike, 4 cazzate in freestyle. Giornate come queste vorrei non finissero mai. Bye bye, i neuroni se ne sono andati via. Ciao. Ma mi piace così, il giorno di ordinaria follia. Se eravamo tutti insieme, se a fumare in serenità. Non stavamo tanto bene, no, ma questa è la normalità. Sì, ma se all'inizio è una festa, sì. Guardano per terra. Ma ha creato un fumo passivo sta canzone che... Oh, non lo so. Click ed è un flash. Un flash, quello dei ricordi, delle